io, Manuel, butta la pasta. Giò Mari, butta la pasta, adesso confetti, un po' di peperonata con salsiccia, e sto preparando il ragù per fare le lasagne. È vino bianco o rosso? Bianco, bianco, io sempre bianco bevo. Bianco come il prosecchino domani, Fessantino. E già va bene, va. Comunque, buonasera, dammi un controllo un po', se la radio va bene, che c'è la contazione che non mi sta facendo lo strumento. Ne ho messo un altro che è un po' qua, sembra che sta funzionando. No, c'è bene, Giamari, un buon po', la radio è bella chiara. Allora, va bene. C'è uno strumento che non mi funziona, quello delle stazionarie, quello del voltammetro non funziona, quello invece delle stazionarie non mi funziona. Non so che è successo, allora non ho messo un altro. E vedo un po', già sta funzionando, allora va, sto contento. No, va benissimo, sto scendendo bene, Giamari. La radio è super 5. Ok, va bene allora, ok. E allora Mario, cosa ci racconti? Mi chiamo Allievi, sono entrato alle 5:30 stamattina, sono uscito da 2 mesi. Ho guardato la televisione fino adesso, perché a coricarmi mi tocco la borsa, non più usando la nutri. E quindi mi sono messo a guardarmi un film, poi mi sono messo qui adesso a cucinarmi la roba un po', la cena, e domani mattina andrò da esercizio. Ehi, vabbè, l'importante è che ci sia, se tranquillo, va bene così, ma dov'è? Va bene, anche se poco, va bene così, dopo che giù fisso e pacca la rocca. Ah, ce n'è il lavoro fisso, domani lascia perdere, già tu venne a farmi in giro, hai visto che hanno fatto il furto alla Bricomac? E rimani, rimani di notte penso. Alla Bricomac che sono un po' roba. Non ho saputo niente, lo sai c'è tu due. Ma l'importante è che non ci siano incidenti, capito? L'importante è questo. Ma Franco l'ha arrivato oppure no? Non ho capito, Giovanni. Se l'ha arrivato Franco oppure no? Non ti ho sentito bene, Giovanni. A male sto uscendo. No, adesso no, perché stava suonando la sveglia e quindi non ti comprimo un po'. Aspetta, forse sono troppo vicino al microfono. Ho detto già l'hanno rifatto in Franca, io ho acciappato i rami. Non lo so se li hanno provati, non lo so, ma se ne è cazzo, lo sai, io non lo so, mettono ragazzini che stanno a casa davanti alla porta col telefono in mano, fumendo, ma che cazzo di guardie sono queste? Per numero li mettono queste persone. Ogni tanto si sedi una, la semana di me, pensando a me, sembra di più male possibile, per carità. Stiamo andando in peggio, Giamari, in peggio siamo andando, se l'altra il giorno di Pasqua sono entrati anche in uno stabilimento vicino a dove lavoro io, a Concoreale, e in una tessitura, si stanno imbucando tutto un rame. Ti metti a me lo lascio con Peggiorelli. Come sappiamo che è così, cosa vuoi fare, vuoi perché c'ha. Lasciamoli qua la sera. Allora, prima o poi che cosa ne sa più? Non c'è nulla, il lavoro già c'è, ma solo che passo il cuore come ti ando io, non manda. Perché non ci fanno. Allora preferisco rubare o cacciare a casa cucati. E cosa vuoi fare? Cosa ci vuoi fare per farci niente? A me si ando io, ma c'è pane subito. Un macello, un macello, Manuel, per carità. Manuel, il telefono, ci sentiamo dopo eventualmente che ci sei. Ciao.